Allora, sono Chuck Bird e oggi vi voglio parlare di una delle band più amate tra quelle nate dopo la rivoluzione innestata dal punk rock alla fine degli anni 70, una band chiamata Cure. Su Cure sono stati scritti una valanga di articoli e un sacco di libri, tanto che è lecito non aspettarsi nessuna ulteriore novità dalla loro biografia. Ma forse nemmeno il fan più acerrimo conosce questo episodio della loro carriera musicale. Nel 1979 Robert Smith incise un singolo, un 45 giri per intenderci, intitolato I'm a Cult Hero, sotto lo pseudonimo di Cult Heroes. Doveva essere una specie di test per verificare se l'allora nuovo bassista Simon Gallup poteva entrare ufficialmente nei Cure. Ebbene, questo singoletto vedeva la voce solista il postino di Robert Smith, l'uomo che ogni giorno portava la corrispondenza a casa del signor Smith. Un giorno si sentì domandare se gli sarebbe piaciuto cantare una canzone in uno studio. Beh, la cosa più stupefacente da sapere è che il singolo entrò nella top 10 canadese. Backstage Facts.